parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! Ciao, allora ben trovati e ben trovate a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, e vi trovate in ascolto dello spazio radio della stampa rassegnata, che in questa estate, come ho annunciato dalla puntata precedente, dedichiamo a un ricordo il più possibile informato e competente degli avvenimenti legati al G8 di Genova del 2001. Le ragioni per le quali prendiamo questo spazio estivo e lo dedichiamo a Genova ci sembrano abbastanza evidenti, per l'importanza che quel momento ha avuto nella storia dei movimenti e dei tentativi di trasformazione sociale in questo paese e in Europa in genere, e non voglio rubare altri minuti preziosi alla trasmissione, che ha una durata di 55 minuti obbligata dall'incalzare della trasmissione successiva, e proprio perché diciamo questo ricordo lo faremo fare, come abbiamo già cominciato dalla puntata precedente, a una trasmissione di Radio Onda Rossa, dove i due redattori sono veramente due fiumi in piena, che hanno avuto il merito e l'intelligenza di conservare i giornali dei giorni di Genova, del prima e del dopo, cosa che permette, gli ha permesso a distanza di anni di fare questo diciamo ricordo di Genova, però attraverso la lettura dei giornali principali quotidiani italiani che in quei giorni avevano affrontato le questioni. Ripeto, non ruberò altri minuti preziosi alla loro ricostruzione, che non riusciremo a contenere nemmeno nella puntata attuale e che finiremo poi nella puntata della settimana ancora successiva. Quindi vi auguro un buon ascolto con questi due compagni, ricordo, di Radio Onda Rossa, che salutiamo, e salutiamo insieme a loro tutti i nostri ascoltatori per la puntata della prossima settimana. Adesso Repubblica del 22, del 23, scusate, qui si parla dell'incursione, del massacro della scuola Diaz, Genova bufera sulla polizia, Scajola: non sapevo del blitz, e questo si è dimostrato che era assolutamente fuori da ogni realtà e ogni logica, Berlusconi due punti, ma i No Global hanno coperto violenti, questo viene ripreso e poi anche dall'editoriale di Corto Maltese, che la giudica una cosa molto grave, che Berlusconi non abbia fatto distinzioni fra buoni e cattivi, anche se in un senso diverso magari di qualcun altro, mentre invece Repubblica si è prodigata dall'inizio anche con falsità. Agnoletta accusa una provocazione organizzata, ecco foto e filmati, nelle perquisizioni trovati documenti di guerriglia, figuriamoci, no, poi appunto, ma nemmeno aspettando il processo si è saputo che non erano assolutamente questo, che sono state indicate come armi, addirittura forbicine e cose del genere, e poi la vicenda delle due Molotov portate, come è stato provato, portate apposta per cercare di dare una copertura a questa cosa. Poi c'è un articolo di Concita De Gregorio sullo spettacolo che dava la Diaz l'indomani dall'assalto poliziesco, sangue vivo, scivoloso e lucido come sciroppo di lampone. La denuncia del social forum all'interno, una provocazione organizzata dopo l'assalto notturno dal governo, un cumulo di bugie. Nella scuola dopo il blitz, è il seguito poi, no, dell'articolo di Concita De Gregorio, nella scuola dopo il blitz solo sangue e distruzione, c'è una foto di un ragazzo massacrato. Poi la controinchiesta dei manifestanti sulle due giornate di scontri a Genova, Agnoletto è virgolettato, è stata una trappola, abbiamo le prove, è chiaro dunque, che c'è stata una connivenza tra guerriglieri metropolitani e forze di polizia, denuncia Vittorio Agnoletto, e più avanti la controinchiesta dei manifestanti sui fatti di Genova è cominciata, si punta molto sulla questione degli infiltrati nei cortei. Luca Casarini, leader delle Tute Bianche, mostra una foto in cui si vede un gruppo di manifestanti, si vedrebbe, che si trova davanti a una caserma dei carabinieri. La replica della polizia, costretti a intervenire. Poi Bertinotti che dichiara è stato sospeso lo stato di diritto. E poi ancora sulla incursione alla Diaz, trovati testi di guerriglia, provati i contatti tra Tute Bianche e Tute Nere. E blitz notturno, Scaiola infuriato, non lo sapevo, qualcuno pagherà. Questa veramente è da incorniciare e mandargliela, se la appende nella casa del Colosseo, perché a me non mi risulta, quantomeno l'ha promossi non lui, ma insomma sono stati tutti promossi. Genova distrutta, riapre i battenti, solo macerie da Albaro a Marassi. E direi che per Repubblica del 23 possiamo, vabbè, la condanna del Papa alla violenza, ma insomma quella. E il Corriere invece del 23, che è lunedì, dà spazio alla morte di Indro Montanelli. Le prime 7 pagine del giornale sono dedicate a Indro Montanelli. La situazione di Genova arriva solo a pagina 8, anche se c'è un richiamo ovviamente nella prima pagina. Scambi di accuse dopo la battaglia di Genova. La polizia, armi improprie nella sede del Social Forum, Agnoletto, hanno fatto una carneficina. E c'è una fondo di Piero Stellino, che in quei giorni, ricordo, si distinse con pervicacia nella difesa dell'ordine costituito a tutti i costi. E leggiamo solo un brevissimo paragrafo per dare l'idea di quale era non solo il suo punto di vista, ma in qualche modo la linea in quel momento, sicuramente del Corriere della Sera. Sull'irruzione di ieri notte delle forze dell'ordine nelle due sedi del Genoa Social Forum e sulle brutalità alle quali esse avrebbero fatto ricorso, dei cui effetti sono testimoni le riprese televisive e gli oltre 60 feriti, giornalisti compresi, le versioni sui due fronti sono, come era prevedibile, discordanti. Sull'episodio indagherà la magistratura. Il nostro auspicio è che essa pervenga al più presto ad appurare le eventuali illegalità e che, come si vuole in uno Stato di diritto, siano chiamati a risponderne a tutti i livelli responsabili. Detto questo, non possiamo però ignorare quale sia la natura dei fatti che sono all'origine delle devastazioni di Genova. Chi in un paese di democrazia liberale protesta armato di spranghe di ferro, lanciando molotov, distruggendo vetrine, incendiando automobili, aggredendo le forze dell'ordine, non esercita un diritto democratico ma una violenza opposta antidemocratica. È a suo modo un rivoluzionario. È un eversore anche chi, pur a mani nude, pretendeva di sfondare le barriere della cosiddetta zona rossa creata dallo Stato per assicurare la sicurezza dei suoi ospiti stranieri. Ci sia consentito di dirlo con la massima franchezza: il capo delle Tute Bianche non è Gandhi e i suoi comportamenti non sono equiparabili alla disobbedienza non violenta del Mahatma. Pagine interne. Guerriglia a Genova, Scaiola oggi in Parlamento, ci fu ovviamente richiesta a quel punto, si svegliarono, diciamo così, soprattutto i democratici di sinistra, cominciarono a chiedere conto al ministro dell'interno, che appunto era Scaiola. Rifondazione e Verdi chiedono le dimissioni del ministro, maggioranza pronta a fare quadrato, in gioco c'è il futuro dei vertici della sicurezza. Il retroscena, giudizi diversi nel polo delle libertà, all'epoca si chiamava così, sull'irruzione nella sede del Social Forum, un'operazione politicamente giusta, no un'inutile mattanza. Non ho colpe, ho ereditato le scelte dell'Ulivo. Questo è Berlusconi. Scaiola mi ha detto che quelli del Social Forum hanno coperto le frange più volente. Il premier al carabiniere ferito: vai in ferie, pago io, niente visita ai manifestanti ricoverati. Berlusconi andò a far visita a Caplanica, a Placanica, ma non andò a visitare i manifestanti ricoverati, i feriti manifestanti. Blitz notturno, il cavaliere è irritato con il suo ministro. Il centro-sinistra cerca l'unità e attacca il Viminale. Rutelli, guaio evitabile se Berlusconi non fosse occupato non si fosse occupato solo di biancheria. Angius e fango su gente pacifica, e cominciano però le risposte all'estero, perché poi questa è l'altra cosa da segnalare. Cominciano risposte ai fatti di Genova in tutto il mondo, lo vedremo in Europa, lo vedremo in Sud America. Atene, auto incendiate e raid nei negozi, Italia nel mirino degli anarchici greci, sotto tiro le vetrine Benetton e i concessionari Fiat e Alfa Romeo, critiche del governo per la sospensione del trattato di Schengen. Ricordo che un traghetto intero di greci fu fermato ad Ancona e non fu fatto proseguire, è un traghetto intero che veniva dalla Grecia. No, furono proprio pestati i compagni e ricacciati a suon di manganellate sul traghetto, cioè qualcosa che veramente sta al di fuori di qualsiasi tipo di diritto, insomma, no? Pagina 12 del Corriere della Sera, la polizia, siamo stati costretti a usare la forza, il vice capo Andreassi sugli scontri nella sede del GSFF, dentro c'erano tute nere, blitz pronto da ore. Sangue, vetri rotti e lacrime, è stato un inferno, poi un ufficiale li ha fermati. I registi riprendono tutto in ospedale, sembrava un brutto film. Gli agenti hanno fatto una carneficina, questo è il social forum che parla. Ecco le foto delle forze dell'ordine vestite da tute nere, la replica sono calunnie. E qui c'è il tentativo di scambio sempre continuo, per certi versi anche dietrologico, per certi versi non sempre, di vedere sempre i provocatori, gli infiltrati eccetera eccetera. Troveremo più avanti addirittura interviste a nazisti che dichiaravano di essere stati a Genova eccetera eccetera. Un giornalista ferito, dormivo, mi hanno squarciato la pelle coi manganelli. Il racconto di un redattore del Resto del Carlino ricoverato all'ospedale. Mi sono qualificato, ma non è servito a nulla. E questo conclude le pagine del Corriere con il carabiniere che guidava la Jeep su cui era Placanica. Non mi sono accorto di schiacciare il ragazzo, il carabiniere che guidava la Jeep, i colleghi mi gridavano, ci ammazzano, metti in moto e vai via. Il papà del militare che ha sparato, mio figlio ama la sua divisa, vuol continuare ad indossarla. Erano intossicati dai lacrimogeni, li stavo portando al posto di soccorso, ma siamo rimasti bloccati. È sempre il carabiniere che parla. Il frastuono delle bastonate sui vetri e sulle lamiere mi ha impedito di sentire i colpi di pistola. Un riquadro centrale, il capo della polizia di Berlino dichiara: noi non avremmo sparato. Niente slogan e bandiere, funerali privati per Carlo Giuliani. Il lunedì 23 comprensibilmente e in modo encomiabile il manifesto esce, come sappiamo il lunedì generalmente non esce, fece un'edizione straordinaria lunedì 23 luglio 2001, edizione straordinaria, la lezione di Genova di Riccardo Barenghi, il G8 è finito, ripulita la città, le tute nere in tre episodi, un racconto più o meno veritiero di Giulietto Chiesa, all'interno Notte di rappresaglia, e parla si parla ancora poco per la verità di Bolzaneto, si comincia a parlare della Diaz, ma Bolzaneto verrà ulteriormente dopo, nel suo pieno, diciamo, valore. Notte di rappresaglia, l'assalto, prima di mezzanotte parte il blitz, i poliziotti entrano nella sede del GFF dove la gente dorme, iniziano a picchiare e a sfasciare tutto. Il massacro, l'edificio è isolato, da dentro arrivano le urla delle vittime, i feriti vengono portati via, molti sono arrestati. Dopo due ore se ne vanno, dentro l'edificio le tracce del passaggio dei barbari, tutto è a pezzi, sangue dovunque. Cortei e presidi di protesta, ieri in Italia e in Europa, anche qui dà conto delle prime manifestazioni che si verificano a seguito di tutta la situazione, ma soprattutto dell'uccisione di Carlo Giuliani, 600 feriti, 253 arresti, sembra l'ultimo bilancio, ma così, e poi diciamo uno sguardo sulle prime reazioni del potere e le ripercussioni sulla polizia. De Gennaro nel mirino, il capo della polizia nella bufera dopo gli scontri di Genova e la perquisizione di sabato notte al Media Center, ma non è detto che venga destituito. Berlusconi con il GFF, colluso con i violenti. Il presidente del Consiglio, Berlusconi, due punti, il GSF colluso con i violenti. Il centro-sinistra assolve il Viminale, oggi il ministro degli interni risponde in un'aula, l'Ulivo è orientato a non chiederne le dimissioni. Viceversa, Di Liberto ne chiede le dimissioni, poi anche il manifesto non sfugge alla tentazione dell'intervista scoop, come dicevo prima, a volte piene di dietrologia, a pagina 4 in fondo, ben in evidenza, quasi mezza pagina, io black nazi a Genova protetto dalla polizia. Storie dal G8, un inglese venuto per spaccare tutto, una ragazza in cerca di riparo durante gli scontri e una morte nella zona rossa. Articolo a cura di Augusto Boschi e Loris Campetti. Direi che per il 23 è tutto, siamo alle diciamo prime avvisaglie, prime denunce di quello che stava succedendo, che era successo alla Diaz. Ancora, come dicevo, non è venuto fuori Bolzaneto. Invece sì, su Repubblica del 25 luglio si parla di Bolzaneto. Comunque andiamo per ordine. Il titolo è G8, la protesta torna in piazza, cortei in tutte le città, accuse al governo e alla polizia, il Viminale assolve i vertici delle forze dell'ordine. Sfilano in 100.000 senza incidenti, l'Ulivo mozione di sfiducia a Scajola. E c'è un fondo di D'Avanzo che parla di le risposte che mancano, che parla del fatto che si ha il diritto di manifestare pacificamente, c'è il diritto di garantire l'ordine, però guarda un po' qual è la prima questione che occorre dirimere: conviene cominciare dalla prevenzione degli episodi di violenza e dal controllo del gruppo più aggressivo dei Black Bloc. Poi 100.000 in piazza per accusare il governo, chi c'era ricorda, insomma a Roma ci fu una grande manifestazione nel centro, in corteo nel cuore di Roma, un solo grido, assassini. Redata poi, le pagine ancora interne, redata tra i Black Bloc verso un'inchiesta sul blitz della polizia, quindi questo è quel massacro assolutamente immotivato, soltanto col sapore di una vendetta, appunto viene definito una redata dei Black Bloc. Invece si comincia a parlare di Bolzaneto, gli avvocati accusano in quella caserma anche torture, c'è una testimonianza, pestando cinneggiavano a Pinochet, e c'è Evandro Fornasier, impiegato di banca eccetera eccetera, che si è trovato a caserma di Bolzaneto nel sabato pomeriggio e dice fra l'altro: per circa 15 ore siamo rimasti in piedi a gambe divaricate con la faccia contro il muro e le mani alzate. A turno entravano militari a usarci violenze di vario genere, sbatterci la testa contro il muro, calci sui testicoli, schiaffi, colpi al torace, gas urticante in faccia, insulti continui, comunisti di merda, froci, oppure perché non chiamate Bertinotti o Manu Chao? Adesso per 5 anni sono cazzi vostri, invece prima, cioè non mi sembra che era diversa la musica. Ci facevano sentire con le suonerie dei cellulari faccetta nera, ci hanno cantato una litania come memorizzato, 1, 2, 3, viva Pinochet, 4, 5, 6, a morte gli ebrei, 7, 8, 9, il negretto non commuove, Sigail, apartheid. E va bene, poi Maroni licenzia Agnoletto, che era consulente per le tossicodipendenze al Ministero della Sanità. Il Viminale assolve le polizie, i vertici, non li toccheremo. Questa mozione di sfiducia dell'Ulivo nei confronti nei confronti dei vertici del Viminale, e poi le prime posizioni invece estere, con la Germania, con l'Inghilterra, anche con la Francia, che insomma dicono veramente avete esagerato. Invece fin qui diciamo, a parte rilevare, come abbiamo detto, il fatto che si comincia a parlare dei massacri alla Diaz e poi a Bolzaneto dopo, insomma, non immediatamente, con un certo ritardo, no? Con un ritardo che poi vedremo quante diciamo responsabilità e direzioni prende, fino ad arrivare, insomma, a una censura in Rai, che a un certo punto interrompono una trasmissione. Ma quello che in tutto questo finora non viene mai messo in evidenza da nessuno è la capacità di dei mezzi di informazione che una parte dei partecipanti all'iniziativa di Genova 2001 si era data come strumenti di comunicazione e come diversa alternativa, diciamo, e come questa abbia funzionato. Una breve traccia c'è sul manifesto, sempre del 23 luglio del 2001, quello uscito in edizione straordinaria, a pagina 6. Potenza della rete informazione, il blitz in diretta alla radio e poi fa il giro del mondo su internet. Cari amici ascoltatori, è un momento tragico, i telefoni sono isolati, speriamo che le comunicazioni continuino a funzionare. Chiamiamo tutti, chiamiamo l'ANSA, la polizia è nel cortile, sono qui dentro al Media Center, cerchiamo di non perdere il controllo, stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova, stanno cercando di sfondare la porta dietro la quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via. È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta, resistenza passiva ragazzi, uno sgombero in diretta, manteniamo la calma, calma, seduti e con le mani alzate, ok, tutti, leviamo quel tavolo, non abbiamo nulla da nascondere, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo solo facendo informazione, continueremo a farla, continuiamo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale e questa polizia fascista, che è entrata nella sede di una radio, manganelli in mano, il casco sulla testa. Questi gli ultimi 3 minuti di trasmissione di Radio Gap prima dell'irruzione della polizia nel Media Center del GSF, dove gli speaker sono acquartierati insieme ai legali e agli attivisti dell'Independent Media Center. Più tardi spederanno in giro per il mondo un file audio che a 30 anni di distanza racconta la stessa storia della chiusura di Radio Alice di Bologna. I manganelli avevano già portato la devastazione nella scuola Diaz di fronte al Media Center, alla Casa dei Popoli, dove i manifestanti esausti riposavano. Quando se ne vanno dal Media Center, oltre al carico di arrestati e feriti, lasceranno dietro di sé i computer distrutti, dopo aver requisito hard disk, materiali video e telecamere. Ma perché? Cercavano materiale compromettente per la polizia? Ma quello, dicono gli attivisti, era già partito da Genova. E poi, dicono, hanno sequestrato solo 4-5 telecamere delle 15 che riprendevano i pestaggi. Questo materiale, grazie a Indimedia, farà il giro del mondo. E passiamo oltre. Io sono al 26 luglio su Repubblica, il titolo importante per Repubblica è quello che, come avevo accennato, cominciano a protestare i governi degli altri paesi, critiche anche dall'Inghilterra, il GIP non convalida molti degli arresti e poi il giorno precedente è il giorno dei funerali di Carlo Giuliani. La Germania accusa l'Italia, troppa violenza al G8, De Gennaro abbiamo reagito alle aggressioni e c'è un'intervista poi all'interno. G8 le pagine interne, arresti ingiustificati, il GIP ordina scarcerateli. Per i blitz nella scuola, 3 filoni di inchiesta, in 2000 per l'addio a Carlo. Poi invece una pagina intera su Bolzaneto, la notte dei pestaggi, un poliziotto a picchiare erano i reparti del Ministero della Giustizia, c'è l'intervista a un poliziotto che rimane anonimo e che conferma quello che già era comunque uscito fuori dalle testimonianze della notte, anche qui degli orrori a Bolzaneto, nella caserma di Bolzaneto. Lui dice che tutto è cominciato una settimana prima con l'arrivo del gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, che appunto si è accanito contro i fermati. Dice: ancora nel naso l'odore di quelle ore, quello delle feci degli arrestati ai quali non veniva permesso di andare in bagno. poi parla del pestaggio sistematico nella scuola, poi ci sono tre interviste a un fotografo romano di 26 anni, continuavano a colpire cantando Faccetta Nera e un inno a Pinochet. E i più violenti sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, poi una ragazza tedesca di 21 anni, mi hanno detto, sempre a Bolzaneto, mi hanno detto devi obbedire, se no ti stupriamo. Rilasciata ieri dal carcere di Voghera, per tre giorni la madre non ha potuto avere notizie, in quel deposito ci hanno massacrati. Un altro studente di 19 anni è stato un incubo, gli agenti sembravano eccitati da droghe, siamo rimasti 4 ore in piedi a prendere sputi, calci e pugni, spero di non incontrare mai più un poliziotto, a chi lo dici? Poi accuse anche, appunto, riprende le accuse del governo tedesco e Amnesty International che mette l'Italia sotto osservazione. Invece molto interessante un'intervista al capo della polizia De Gennaro, che io non ricordo, non so se lo ricordi tu, che cosa adesso fa, che ruolo ha De Gennaro in questo momento. Questa intervista al TG5 dice, parlando della questione della Diaz, che le forze dell'ordine in quella circostanza hanno deciso di fare una perquisizione perché c'erano fondati motivi che in quell'edificio ci fossero esponenti dell'ala più dura dei manifestanti. Il problema è che invece di una perquisizione è diventato un ulteriore episodio di ordine pubblico, perché dice la polizia quando è arrivata è stata aggredita. E qui c'è la questione della coltellata che in sede a un poliziotto che in sede processuale è stata completamente smentita. Così come le Molotov. Così come le Molotov, l'abbiamo detto prima, portate lì, ma la cosa della coltellata ha tenuto banco per parecchio tempo e poi si è dimostrato che era incompatibile con quello che avevano detto e che era un taglio fatto ad arte su questo giubbotto. E se il primo poliziotto che è entrato non si fosse beccato una coltellata, le cose sarebbero potute andare pacificamente. La coltellata arriva dopo un'aggressione con pietre, lancio di oggetti dai piani superiori dell'edificio, anche questo completamente falso, ma continuato a strombazzare. Fra l'altro va detto anche a magari a qualche anima bella che pure se tutto questo fosse stato non spiega perché poi tu prendi un ragazzo che sta dormendo e che quindi né ti ha coltellato né ti ha tirato niente e lo massacri finché lo lasci esamine, fratturato e maciullato, cioè questo non capiamo che cosa abbia a che fare con la questione dell'ordine pubblico. E poi mi pare che sì, per Repubblica del 26 non c'è altro. Invece dal manifesto del 25 diamo conto del 25 luglio 2001 diamo conto della risposta che ci fu già il 24 e quindi tre giorni dopo i fatti in tutta Italia. 40.000 a Piazza Venezia, manifestazione a Roma con un grande striscione di apertura, qui c'era scritto assassini, 100.000 nella notte di Milano, a tarda sera Piazza del Duomo e Zeppa, un corteo improvvisato e pacifico prende possesso delle vie del centro, di nuovo ancora a Napoli, a Firenze, a Genova, a Bologna e in altre città d'Italia anche minori. E poi la denuncia di lettere che di gente che ha partecipato alla manifestazione, chi confirma, chi senza firma, che denuncia episodi di violenza in quelle giornate. E poi ancora gli scomparsi, migliaia di chiamate da tutta Europa, dove sono i nostri ragazzi? A un certo punto mancavano all'appello, nel senso che non erano rientrati nelle loro abitazioni normali, non ce n'era notizia tra i fermati, negli elenchi degli ospedali, si cominciò a pensare a dei desaparecidos, di cui poi fu chiesto conto al ministro Scajola, eccetera, eccetera. Carcerate di Voghera, tra gli arrestati 30 donne e un gruppo teatrale. Le denunce di Amnesty, nelle prigioni non si può entrare, sit-in a Dublino, Vienna e Pamplona di protesta, a Parigi i pestati protestano all'ambasciata italiana, Chirac e Jospin comprendono tra virgolette il movimento. Poi la mattanza di Genova raccontata dai medici, i volontari del GSF testimoni degli abusi e delle violenze della polizia, una serie di episodi impressionanti. Un articolo firmato da i sanitari del Genova Social Forum, molti compagni che vennero e dettero la loro disponibilità per prestare soccorso, i primi soccorsi. Una mozione, poi qui siamo al, evidentemente i contrasti nel Parlamento, una mozione contro Scajola, questa mozione andrà avanti, non andrà avanti, alla fine Scajola se la caverà perché la mozione fu respinta, e poi il dibattito sempre, diciamo che il manifesto seguiva e segue tuttora attentamente questi i sospiri e i mal di pancia della sinistra parlamentare. Genova divide la Quercia, articolo di Cosimo Rossi, il movimento e la globalizzazione dividono e paralizzano i DS, Folena e le sinistre insistono per un'iniziativa in tempi stretti, Fassino lamenta la presenza dei militanti a Genova, cioè non ce li voleva. La rabbia del popolo diessino, a più alti incarichi, Mario Agostinelli defenestrato, arriva la Camusso. Mario Agostinelli era segretario della CGIL Lombardia all'epoca e fu sostituito d'ufficio da Cofferati e al suo posto mise Susanna Camusso, attuale segretario generale della CGIL. Il Corriere della Sera del 27 luglio 2001 ha una non ha più in prima pagina o quasi il problema di Genova, mette come titolo immigrati espulsioni più facili, pronta la nuova legge, compie reato chi varca la frontiera illegalmente, perché guarda caso in quei giorni fu varata la Bossi-Fini, proprio in quei giorni fu varata la Bossi-Fini. All'interno, no all'indagine, D'Alema accusa il governo, si vogliono coprire e incoraggiare le rappresaglie cilene e i comportamenti fascisti visti a Genova. Questo è sempre stato per me almeno il segno più disgustoso di questo personaggio politico, che è sempre stato, diciamo, dalla parte dell'ordine costituito in tutti i casi, e non aprì bocca fino a quando, proprio costretto dalle circostanze, costretto dalle evidenze documentarie che ormai avevano invaso qualsiasi televisione, qualsiasi sito internet, qualunque cosa, allora si permise di dire che era stato un comportamento fascista e addirittura richiamare la situazione cilena, tanto per cosa. Quindi da strumentalizzare nel vero senso della parola, perché poi insomma quando si trattò di alla fine di dire stai con il movimento, stai con le forze dell'ordine, non ci fu dubbio da che parte stava l'onorevole Massimo D'Alema. A pagina 2 del Corriere della Sera, filmato shock sulle violenze, la RAI ferma Freccero. Immagini, i vertici sospendono la trasmissione perché troppo vicine alla posizione del Genova Social Forum. Il direttore di RAI 2 accetta il rinvio. Era una trasmissione che si chiamava, mi sembra, Stracult. E nell'ambito di questa trasmissione, più o meno trasmissione contenitore, nel tardo pomeriggio del giorno prima, lo speciale Bella Ciao Social Forum Un altro mondo possibile, realizzato dai giovani manifestanti dal regista Roberto Torelli, previsto per ieri sera su Rai 2 alle 22:45 nello spazio Stracult, curato da Marco Giusti. Il filmato era stato annunciato ieri mattina dal direttore di rete Carlo Freccero durante un seminario sul palinsesto. Freccero ha affermato che il filmato sarebbe stato bloccato nei giorni scorsi, di qui la decisione di trasmetterlo ieri sera, ma la perplessità dei consiglieri di amministrazione Alberto Contri e Giampiero Galameri hanno spinto a una riflessione. Si chiama riflessione quando si tratta di fare la censura, non si chiama censura, si chiama riflessione. Ruggero, che era ministro degli esteri, in Italia non sparisce la gente, giusto in risposta a quello che dicevo prima, che mancavano all'appello, nessuna critica da stati stranieri, però la Gran Bretagna chiede spiegazioni. La procura, intanto, si muovono evidentemente i magistrati, le inchieste sono diciamo numerose a quel punto, no? Si comincia a parlare di numerose inchieste aperte per, aperte per i vari fatti accaduti in quelle tre giornate, no? Le prime, insomma, che vengono elencate già a partire da appunto dal 26-27 luglio sono un'inchiesta sulle violenze. Da ieri i PM indagano sugli episodi di violenza nei confronti delle persone fermate che dicono di essere state picchiate in carcere o in strutture di prima detenzione. Fra queste la caserma della polizia di Bolzaneto. Poi l'inchiesta sull'omicidio, continua l'inchiesta sulla morte di Carlo Giuliani, il giovane ucciso venerdì scorso da un carabiniere, il blitz, da giorni i magistrati indagano sull'irruzione compiuta dalla polizia sabato notte nella scuola Diaz, sede del Genova Social Forum, le tute nere, un quarto fascicolo riguarda i presunti membri del Black Bloc, sorpresi nei giorni dopo il G8 nell'entroterra di Genova. A bordo dei loro camper c'erano bastoni, abiti neri e coltelli. L'ordigno, l'inchiesta in corso anche sulla busta esplosiva recapitata alla caserma dei carabinieri di San Fruttuoso, che ha ferito un carabiniere, e su quella indirizzata al prefetto di Genova, che è stata disinnescata alle Poste. Infine, l'altra inchiesta riguarda gli scontri in genere, quindi quelli sulla devastazione e saccheggio, diciamo così, della città. Un sesto fascicolo riguarda gli scontri di piazza nei giorni del vertice. Le notizie di reato saranno raccolte in un fascicolo contenitore per poi essere divise tra i vari PM. Il GOM, che cos'è il GOM? È il gruppo operativo mobile, corpo speciale al centro delle polemiche per i fatti di Genova, è nato nel 97, il precedente di Sassari, 600 superagenti per sorvegliare i boss e intervenire contro i detenuti in rivolta. Il gruppo operativo mobile è nato nel 97 e dipende dal direttore del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Gli uomini del GOM si occupano di custodia e controllo dei detenuti appartenenti alla criminalità organizzata e molto pericolosi. Organizzazione ed esecuzione delle traduzioni di detenuti ad alto indice di pericolosità e di collaboratori di giustizia. Ricordiamo, insomma, tanto per la cronaca, che a parte il GOM, su cui cercheranno di scaricare parecchie delle responsabilità che poi in qualche modo emersero, lì c'era presente il battaglione Tuscania, che era reduce da fronti diretti di guerra. C'erano presenti anche reparti della Folgore, altri reparti specializzati, insomma, di forze armate equipaggiate o con i loro blindati semoventi, cingolati, eccetera, eccetera. Ce n'erano, no, poi c'era la Guardia di Finanza, che adesso sta allegramente implicata in 10.000 scandali, che io non ricordo, ma magari è la memoria che mi fa difetto, ma forse è una delle prime volte che è stata impiegata direttamente in operazioni di ordine pubblico cosiddette, che caricò, e la cosa impressionante, con le mitragliette in mano, insomma, non è sicuramente casuale essere caricati da militari con le mitragliette. La Guardia di Finanza sono militari con le mitragliette in mano. E adesso ci abbiamo la Repubblica del 27 luglio, e qui sì, si sta un po' nella prima pagina sminuendo, diciamo, l'importanza. G8, inchiesta sui pestaggi, che poi non c'è stata, non mi risulta che inchieste interne, per quanto invocate, abbiano, e nemmeno inchieste parlamentari abbiano avuto luogo, abbiano portato a qualche risultato. Ruggero, appunto, che è il ministro di allora degli esteri, alla Camera difende il vertice, mentre dall'Europa la richiesta di una commissione internazionale. Scoppia il caso Bolzaneto, Castelli si difende, D'Alema clima cileno, parlo proprio di macelleria cilena. C'è un fondo di Ezio Mauro, se lo Stato si confonde con le armi della polizia, e qui dice ancora una volta, instancabile, occorre riflettere sul comportamento delle polizie, sui pericoli che il movimento anti-globalizzazione corre se non si separa subito e definitivamente da ogni violenza, e questa ancora sempre sta pressione. E all'interno i PM chiedono fuori i nomi degli agenti. Genova, inchiesta anche sulle violenze in caserma, e poi liberati tutti gli arrestati, solo uno rimane in cella. Qui si riferisce agli arrestati del blitz nella scuola Diaz di Genova. I magistrati appunto non convalidano gli arresti. I magistrati hanno aperto 3 indagini distinte sull'operato delle forze dell'ordine. Alla Diaz verranno raccolti campioni di DNA per identificare le persone picchiate. A Bolzaneto era la celere a pestare i prigionieri, e invece poi, ancora più interessante, Castelli è la notte del sangue, c'ero e non vidi violenze. Castelli, qualcuno lo ricorderà, che era il ministro di Grazia e Giustizia, si dichiara pronto a temostominiare, poi incontra i capi degli uffici penitenziari. Io quella notte a Bolzaneto c'ero, ho visto delle cose, intendo renderle note. Uno dice: Madonna, adesso il ministro ci racconterà. Dice: non ho una trentina di righe invece per negare pestaggi sistematici e preordinati da parte della polizia penitenziaria. Quindi forse pestaggi non preordinati e non sistematici, ma comunque altrettanto gravi invece forse ci sono stati. Poi si lancia in un'analisi del fatto che c'è, quando vieni portato in caserma, c'è un protocollo per cui te fanno la visita prima, la visita dopo. Se c'è un livido in più vuol dire che ti hanno pestato dentro, ma insomma la verità politica la conosciamo, e qualcosa della verità invece processuale anche è uscita fuori. Il fatto di Castelli presente nella caserma di Bolzaneto fu una delle cose più vergognose, nel senso che poi lui ebbe il coraggio, mai attaccato e mai smentito concretamente, di dire lì era tutto tranquillo, sguardi sereni, visi tranquilli, eccetera eccetera. Insomma, questo è sì. E poi fra l'altro anche il fatto invece che va rilevato che sulla questione delle visite mediche ci sono stati dei falsi. Se qualcuno ha fatto ha mantenuto fede al giuramento di Ippocrate, sono stati i medici e infermieri degli ospedali Galliera e non mi ricordo come si chiama quell'altro, che hanno cercato in tutti i modi di impedire che la polizia, che è arrivata dentro i pronto soccorsi per quello che hanno potuto, perché ovviamente in molti casi non ci sono riusciti, di impedire che gente pestata a sangue, massacrata, quindi in condizioni fisiche gravissime, venisse portata via, fermata e poi sottoposta a altre torture, altri pestaggi. Insomma, questo va ricordato. Mentre invece i medici, ricordiamo il dottor Mengele, così veniva chiamato, mi sfugge il suo nome, al secolo, che era uno dei responsabili, dei dirigenti medici proprio di Bolzaneto, che fu uno dei più crudeli, dei più cattivi nei confronti dei manifestanti che si trovavano in caserma, e che invece adesso ci ha avuto pure un premio di produzione per le dalla ASL, da cui dipende, per le particolari attività sociali svolte nella sua carriera. Rapidamente dal Corriere del 28, stiamo nei giorni caldi della polemica, insomma si va ormai delineando chiaramente che cosa è successo, almeno la natura di quello che è successo nella caserma di Bolzaneto e alla Diaz, come sono stati trattati gli arrestati, come è stato il blitz della polizia all'interno. Quindi la polemica in Parlamento diventa, e anche fuori, diciamo così, diventa incandescente. Tutti i giornali del mondo, Daily Telegraph, Guardian, Le Monde, Il Paese, Die Welt, Liberation e così via, parlano dell'operato della polizia italiana. Ne dà conto appunto il Corriere della Sera del 28 luglio, riportando tutte praticamente le prime pagine di questi giornali, che lo riportano come titolo principale del comportamento delle cose. Nell'Ulivo indagine c'è un contrasto interno. Bassolino critica D'Alema, clima cileno, nel senso che non lo ritiene vero, non ci sono stati eccessi secondo Bassolino, Violante contro le tute bianche hanno responsabilità, sull'Espresso Giampaolo Pansa attacca il Social Forum, Agnoletto leader dei Red Bloc. Il consigliere d'amministrazione Contri, della consigliera d'amministrazione Rai, dice: sul G8 questa Rai faziosa ha emarginato chi vota centrodestra, Mediaset vincerà. Voi capite che insomma c'era stata la censura di immagini che documentavano quello che era successo, eppure passa un punto di vista completamente rovesciato. Napolitano, inteso come l'attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, De Gennaro ebbe anche il gradimento del Polo, l'ex ministro dell'interno, ora deputato europeo. Dobbiamo isolare chi chiama assassini gli uomini in divisa. Questo era Giorgio Napolitano, deputato europeo nel 2001. I giudici, quei funzionari di polizia vanno puniti, gli atti sul blitz alla procura generale per l'azione disciplinare, arresti illegittimi, una galleria degli orrori. Va ricordato che moltissimi degli arrestati furono scarcerati dalle prime, diciamo, prese visione degli atti da parte dei pubblici ministeri, moltissimi proprio furono scarcerati. Primo rapporto sugli scontri, vertice dal Premier, dossier di De Gennaro sulle accuse alla polizia, poi il ministro dell'interno e Vattani, che era un consigliere, vanno da Berlusconi. 10 agenti aiutarono i feriti, erano allo stremo. Il sindacato di polizia, CGL, FP, CGL Polizia, dice: ora il GOM, quel reparto operativo mobile, va sciolto. E poi, dopo Genova, una pagina intera sui black bloc, che vale sempre la pena di tratteggiare, perché sono veramente un compendio, perché hanno questa impronta didattica, no? E c'è una fotografia di uno con un casco che dice: gli anarchici guerriglieri. Poi il nome, il termine black bloc è stato coniato dalla polizia tedesca per identificare bande di autonomi, sottolineato in neretto, negli anni 80 negli Stati Uniti. I black bloc fanno la loro apparizione durante la manifestazione di anarchici contro la guerra del Golfo. Come si vestono i black bloc? Perché qui è un manuale completo. Durante le manifestazioni, chi fa parte di un black bloc indossa casco da moto nero, passamontagna, occhiali da sci più protettivi. Il nero viene scelto per essere anonimi ed egualitari. Come si muovono? Durante le manifestazioni formano piccole squadre che si spostano in continuazione, sono chiamati gruppi di affinità e sono pensati come drappelli fluidi, instabili, pronti ad adattarsi alla situazione della guerriglia urbana. Gli obiettivi: black bloc assaltano e distruggono le vetrine di bersagli strategici, anche questo in neretto, come banche, sedi di multinazionali o immobiliari, ma anche incarnazioni del capitalismo, come le automobili di lusso. Per loro attaccare la proprietà privata non è un'azione violenta. In teoria evitano lo scontro diretto con le forze dell'ordine. Le TAZ, questo non lo so onestamente, mi sembra una novità anche per me, evidentemente mi era sfuggito 10 anni fa, nelle città dove si muovono vogliono creare TAZ, zone temporaneamente autonome, territori liberati con barricate e blocchi stradali dalle forze dell'ordine o dai simboli del capitalismo. E poi insomma una pagina intera evidentemente dedicata, c'è uno che è l'inviato da Costantino Muscau, dice che è stato nel campo dei duri in Germania, se mi chiami tutanoria non mi offendo, distruggere la proprietà accettabile. Insomma, questo ha fatto un reportage evidentemente su questa cosa. Chiudo con il Corriere del 28, non chiudo tutto, chiudo il Corriere del 28 con, di nuovo va citato, lo dicevo prima, il fondo di Piero Stellino, quelle parole come pietre, dico solo il primo periodo, una sinistra che di fronte all'operato delle forze dell'ordine a Genova agita come ha fatto Massimo D'Alema lo spettro del fascismo, finisce col trasferire la legittima dialettica politica dalle aule del Parlamento allo scontro di piazza e, come accaduto in passato, può fornire, anche se involontariamente, un alibi politico e morale alla cosiddetta violenza democratica contro lo Stato. Se l'Italia rischia di diventare il Cile di Pinochet, diventa anche legittima la resistenza armata, oggi armata solo di pietre e spranghe di ferro, domani chissà dalle P-38. non si preoccupazione infondata quella di Ostellino, evidentemente. Allora, continuiamo senza stacchi, sperando insomma di fare cosa gradita per poter, diciamo, completare poi questa rassegna storica dei giornali del luglio 2001 sui fatti di Genova. E, o Repubblica del 29 luglio, c'è sempre più piccolo in prima pagina, ancora un richiamo a Genova, G8 super poliziotti al rapporto, al via l'inchiesta interna, scontro tra i poli sulla commissione, la procura di Genova, dateci foto e filmati dei pestaggi, si punta su Bolzaneto, Violante pronti alla mobilitazione. Poi c'è un fondo di Scalfari, giustizia senza benda e senza bilancia, che dice una cosa in un contesto discutibile ma nemmeno troppo peregrina, che dice che se qualcuno ha sostenuto che se le manifestazioni si fossero svolte in modo interamente pacifico la polizia sarebbe rimasta tranquillamente al suo posto, e lui dice beh, se le cose si svolgono in modo pacifico la polizia non c'è manco bisogno. Comunque poi invece c'è un articolo di Bocca, le molte anime di un regime, non chiamatelo fascismo, dice, chiamatelo regime, che una volta tanto, da uno che manco, insomma, non è mai stato un compagno, ma ha sempre avuto una grande attenzione alle evoluzioni e involuzioni dello Stato cosiddetto democratico, parla appunto delle derive che, appunto democratiche, chiamiamole così dal suo punto di vista, che ci sono state appunto nei giorni di Genova, e che fra l'altro, senza stare troppo a cincischiare sulla questione black bloc o non black bloc, invece punta il dito proprio su quello che politicamente hanno significato i fatti di Genova, e dice appunto che le discussioni senza fine sulle responsabilità di Genova non cambiano, che Genova è stata con la sua dita violenza anticamera del regime, dice che, ripete più volte, che non si tratta di fascismo perché ci sono ovviamente le differenze, però dice poi più avanti che sta di fatto che dopo Genova la parte dell'oppositore comporta dei rischi reali di violenza, precisamente la condizione che autorizza a parlare di regime. E parla poi della selezione politica che opera nell'assunzione degli agenti, dei carabinieri eccetera, prediligendo ovviamente giovani di estrema destra, neofascisti del tipo cileno. All'interno, mentre nelle prime pagine interne si affievolisce notevolmente la questione, arriviamo fino a pagina 8 dove si riparla invece di Genova, sentiti i super poliziotti, la Barbera e Gratteri hanno riferito ai tre ispettori dell'interno che indagano sul G8, domani rapporto a Scaiola, e la procura cerchiamo film, Bolzaneto peggio della Diaz. E in quelle stanze niente sangue, ho visto agenti sereni e civili. Questo è ancora Castelli che regala un'intervista questa volta a Repubblica, le colpe dei manifestanti. Noi leghisti non siamo mai stati maltrattati, siamo pacifici, si può manifestare senza incidenti. Peccato che c'erano pure qualche accusa poi fatta scomparire con una legge ad hoc da Calderoli sul fatto che avevano tentato una sorta di insurrezione, se vi ricordate. Poi c'è una testimonianza a un professore di filosofia di 51 anni, c'è anche una foto del suo volto massacrato, arrestato a venerdì a Genova, ci picchiavano senza pietà, stranieri costretti a firmare falsi verbali. E commissione G8 e scontro, ultimatum Violante al governo, e poi Alleanza Nazionale accusa il capo della polizia, Scaiola informato poco e male, AN va all'assalto di De Gennaro.